facciamo e la banda imitiamo. C'è chi suona l'ocarina e fa musica carina. La chitarra è da accordare, ora è tempo di suonare. Ognuno suona ciò che sa, un gran concerto è questo qua. All'asilo tu verrai e di certo riderai, con canzoni in libertà, danze e balli in quantità. Siamo già qua da qualche oretta. Chi dirige l'orchestrina? Chi fa musica in sordina? Dai, cantiamo e suoniamo assieme. Noi ci divertiamo, anche se un po' scordati, nell'insieme intorno.